Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti. Cosa non si è visto sui mercati nell'ultima settimana? Venerdì scorso, lo ricorderete bene, a quest'ora stavamo raccontando le prime drammatiche conseguenze del terremoto giapponese, dello tsunami che ha colpito il nord-est del Giappone. Tra l'altro, venerdì l'impatto immediato sui mercati finanziari non era apparso così travolgente come quello che si è invece poi verificato nei giorni successivi. Fra lunedì e martedì la borsa di Tokyo ha perso oltre il 16%, per poi recuperare un po', riperdere di nuovo terreno, mettere a segno un nuovo discreto recupero questa mattina, e dietro tutte le altre borse internazionali che sono rimaste inevitabilmente e letteralmente spiazzate davanti alla minaccia di disastro nucleare che adesso appare ridimensionato, ma insomma ancora notizie certissime su questo fronte non ce ne sono. Ancora una volta abbiamo appreso come fattori del tutto imprevedibili possano fiaccare, anche se magari temporaneamente, il mercato, circostanza che abbiamo avuto anche modo di commentare di recente con la crisi del Nord Africa. E in tutto questo mix di fattori che hanno un po' deviato l'attenzione degli investitori ci sono anche tutti gli altri temi e problemi da monitorare. La crisi del debito sovrano europeo, riaccentuata dai ripetuti interventi delle agenzie di rating, questa settimana è toccata la doppia bocciatura al Portogallo. La ripresa della corsa dell'inflazione, alimentata dalle quotazioni del petrolio, che porterà a breve un aumento dei tassi di interesse in Europa, mentre questa settimana la Banca Centrale Americana ha mantenuto i tassi fermi. Insomma, lo scenario di riferimento per chi investe, da grandi patrimoni a piccoli patrimoni, quelli dei piccoli risparmiatori che sono i nostri più fedeli ascoltatori, cambia costantemente. Siamo forse fuori dalle secche più pesanti della crisi recente, quella crisi che passerà alla storia come la crisi dei mutui subprime, ma non è ancora completamente schiarito l'orizzonte e ogni tanto si aggiungono fattori nuovi di preoccupazione come quelli recenti. E allora, in tutto questo quadro che ho dipinto, che non è che sia proprio un quadro, un acquarello insomma a tinte delicate, come dobbiamo muoverci in queste acque agitate? Quanto peserà a questo punto anche la crisi giapponese, a seconda anche dell'evoluzione che ci sarà? Stamattina abbiamo parlato di questo intervento congiunto fatto dalle autorità monetarie internazionali, un intervento concordato dai paesi del G7 per frenare la forte ed accentuata volatilità sul mercato dei cambi e soprattutto questa incredibile corsa dello yen sulle altre monete, appunto, che andava in qualche maniera fermata. Con chi commenteremo questa mattina tutti questi argomenti? Intanto di sicuro con i vostri interventi all'800240024 e poi con Stefano Rossi, amministratore delegato di Edmond Rothschild Bank Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E in collegamento telefonico con noi Francesco Tarabini Castellani, responsabile per l'Italia di Banca Vontobel. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, vi ho dato il numero di telefono per intervenire che conoscete molto bene. Se non volete intervenire in diretta ci potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vi ho ritracciato un po' quello che è stato il quadro delle notizie degli ultimi giorni. Per quello che riguarda questa mattina, le borse europee sembrano avere intenzione di consolidare i progressi, i recuperi messi a segno ieri. Parigi sale dello 0,85%. Abbiamo Francoforte con un più 0,55, Londra più 0,37, un po' più modesta, Milano che segna un più 0,23%. Per la borsa italiana c'è questo trascinamento verso il basso dei titoli Lottomatica che sono stati bocciati da OBS, il gruppo perde il 5% e a distanza seguono i cali di oltre un punto di STM, di Eni, meno mezzo punto per Banca Monte dei Paschi e per A2A. Segno più invece su Parmalat, su cui continua la speculazione molto forte, più 3,44%, è stata ingaggiata una vera e propria lotta a colpi di acquisti di pacchetti azionari appunto per il controllo del gruppo. Ieri a mercati chiusi i francesi di Lactalis hanno annunciato di essere diventati primi azionisti della società di Collecchio con l'11,4% e il mercato attende ora le mosse dell'eventuale cordata italiana per il gruppo alimentare guidato da Enrico Bondi. Entro stasera dovranno essere presentate le liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione nell'assemblea degli azionisti appunto di aprile. Tra gli altri rialzi Campari, più 2,75 Saipem, più 2,59 Fondiaria, su cui c'è sempre una certa attenzione, più 1,68%. Mercato ricambi, dicevamo stamattina, da monitorare particolarmente. L'intervento del G7 ha portato un vistoso recupero del dollaro sullo yen a 81,44. Ricordiamo che ieri il dollaro è caduto al suo nuovo minimo storico nei confronti della divisa nipponica a, se non ricordo male, il rapporto di cambio 76,52. Però mentre sta recuperando sullo yen, sta riperdendo terreno sull'euro. L'euro sul dollaro stamattina quota 1,41,28. Insomma, cosa sta accadendo stamattina? Speriamo che ce lo riescano a spiegare in termini semplici i nostri interlocutori. Intanto con la nostra scheda ne riepiloghiamo un po' i fatti degli ultimi giorni. C'è ancora incertezza sugli effetti negativi del terremoto e dello tsunami in Giappone. Il tema del nucleare è quello che desta maggiori preoccupazioni, ma l'effetto finale sull'economia potrebbe essere rilevante in termini di calo di produzione, rallentamento dei traffici commerciali e dei consumi. Le principali borse internazionali, Tokyo in prima linea, hanno tuttavia reagito pesantemente al sisma. La piazza nipponica ha lasciato sul terreno in due giorni il 16%, salvo poi recuperare parte delle perdite. Ma nel crollo iniziale ha trascinato con sé le altre borse mondiali. Ad avere la peggio sono stati il settore energetico, per le implicazioni nel nucleare, così come quello assicurativo per l'aumento delle richieste di rimborso. Non è andata meglio ai settori tecnologico e automobilistico, campi nei quali il Giappone è sempre stato leader. Ad accusare il colpo anche il sistema finanziario. Le banche giapponesi potranno risentire del calo dell'attività economica e del credito, mentre sugli istituti europei si è abbattuto il rinnovato timore sul rischio debito di alcuni paesi, accentuatosi dopo il declassamento da parte di Moody's del Portogallo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, oppure potete rivolgerci le vostre domande, le vostre osservazioni al 349-238-6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, Stefano Rossi, ricomincio con lei, che rispetto a Tarabini Castellani, come dire, non veniva a trovarci da un po' più tempo, così quindi per essere carina ed ospitale stamattina faccio questa scelta, comunque a parte gli scherzi. Abbiamo visto come la crisi libica abbia di nuovo un po' scompaginato l'atteggiamento degli investitori, è abbastanza inevitabile di fronte a crisi di questo tipo. Sicuramente l'emergenza giapponese è qualcosa di inedito, molto importante, che potrebbe avere delle ripercussioni a lungo termine ancora più preoccupanti. Ma la prima domanda che mi viene è, intanto, per esempio, la borsa di Tokyo quanto conta nello scacchiere finanziario mondiale? Per voi investitori professionali di grosso peso, insomma anche di grossi patrimoni, la piazza finanziaria di Tokyo ha una così grande importanza? Non più di tanto, nel senso che se uno avesse il Giappone diciamo in posizione neutra su un benchmark globale, peserebbe circa il 4%. C'è anche da dire che Tokyo non è mai stato un mercato diciamo particolarmente interessante, anche soltanto per il fatto che i titoli sui sistemi, mi viene a pensare magari una cosa un po' così, solo a leggerli il nome di una società, no, sono identificati da numeri, cioè se uno vuole comprare non so, la Sony piuttosto che la Toyota, così, ci sono dei numeri, allora bisogna ricordare il numero, cioè dico questo anche, vabbè, avranno un codice ISIN un po' come le nostre società, no, non è l'equivalente. Non è che voglio fare quello che vede sempre tutto rosa, però il Giappone sicuramente è importante a livello di economia mondiale, perché le dimensioni del Giappone sono, come sappiamo, quelle della terza economia mondiale. Sono importanti perché ultimamente l'economia mondiale l'economia giapponese, meglio, stava dando dei segnali interessanti di crescita, malgrado uno yen già forte da tempo e piuttosto in modo inspiegabile forte, anche perché la vicinanza geografica della Cina stava aiutando molto le aziende giapponesi. La Cina è il principale interlocutore commerciale giapponese. Quindi pur avendola sorpassata, diciamo, in termini di crescita economica, la Cina in qualche maniera comunque la ripresa del Giappone la stava sostenendo, aiutando. Assolutamente, ma questo continuerà. Ecco, mi permetto di dire, allora, in questo scenario apocalittico che lei, come altri media in questo momento, stanno giustamente in qualche modo monitorando e anche osservando, perché qui si tratta di osservare, mi permetto di dire alcune cose che magari sono un po' meno apocalittiche. Cioè, facciamo questo esercizio di così. Rassicurazione in qualche non maniera. È una rassicurazione bonaria, è un'analisi delle cose che possono essere non così apocalittiche, mettiamolo da questo sono punto stata di vista. Così apocalittica nella descrizione del programma? No, il pathos non le è piaciuto, no, il pathos dei giornali in questi frangenti non mi piace mai. perché e dei media in particolare, perché ovviamente l'evento giapponese è un evento di portata colossale e anche, speriamo, per fortuna, piuttosto unico e raro. Poi in più ci si è messa anche la situazione di crisi nel Nord Africa, però ecco, i media in questi casi qua non fanno bene a enfatizzare soltanto le cose estremamente negative. Mi dicono chi è esperto di media che i giornali vendono soltanto se ci sono notizie negative. È che qualche volta, Rossi, ci colpevolizzano anche per il fatto di non essere stati abbastanza lucidi e realisti appunto nel raccontare le cose, quindi sa com'è, anche per noi la vita è dura. Assolutamente, è dura per tutti, quindi chi sta sui mercati in questi giorni cerca di guardare quelle cose che sono un po' meno apocalittiche. Elenchiamole. Allora, intanto l'intervento e la rassicurazione da parte della Cina come partner commerciale nei confronti del Giappone mi sembra un elemento positivissimo, perché non ci sono mai stati, in particolare come negli ultimi periodi, dei momenti, direi, di reciproca collaborazione così forti tra la Cina e il Giappone. È chiaro che l'economia giapponese è direttamente collegata alla crescita cinese, e questo darà la possibilità al Giappone di riprendersi sicuramente dopo questo primo impatto, ovviamente molto negativo e disruptive, che stanno vivendo in questo momento. L'altra cosa che mi viene da pensare è che, chiaramente, essendoci meno crescita economica a livello mondiale, perché l'economia giapponese va in rallentamento e perché sono tutti ovviamente preoccupatissimi di questo, questo potrebbe portare, sempre che il petrolio rimanga, diciamo, all'interno di un range che identifichiamo così per facilità con i $100 al barile, potrebbe portare a meno spinte inflattive. Ricordiamoci che negli ultimi 3 mesi abbiamo sentito parlare praticamente quasi in modo esclusivo di spinte inflattive, l'ha detto anche lei, dando quasi per scontato un rialzo dei tassi. I banchieri centrali hanno già in qualche modo si sono portati avanti, in alcuni paesi l'hanno già fatto, il rialzo dei tassi, quindi mi viene da pensare che se c'è una situazione di crisi a livello mondiale e dovuta agli eventi che abbiamo descritto, è meno probabile che ci siano dei rialzi di tassi piuttosto improvvisi e violenti. Ecco, questo è un elemento, un piccolo elemento positivo per quello che riguarda la crescita economica futura e più stabile nel mondo. Allora, no, tra l'altro stavo pensando anche ai momenti di crisi abbastanza drammatici, anche quando stava deflagrando la crisi dei mutui subprime. Mi ricordo che il governatore della Banca Centrale Europea, Trichet, non esitò comunque a fare un ultimo rialzo dei tassi di interesse, era in giugno tra il 2007. Mi permetto di dire che fece un errore. Ecco, esatto, ma infatti lo riconobbero tutti quanti, quindi vedremo magari se adesso, alla luce anche di questi effetti che il Giappone sta determinando sui mercati, se magari così avrà meno voglia di fare questo intervento che ha preannunciato, un intervento che ha preannunciato per gli inizi di aprile. Francesco Tarabini Castellani, responsabile per l'Italia di Banca Vontobel. Avevo lanciato così il sassolino nello stagno prima della nostra pausa, proprio preannunciando una vostra analisi recente sulle possibili conseguenze anche di un terremoto di natura nucleare, chiamiamolo così, insomma, tanto per continuare ad essere ad utilizzare una terminologia che non piace al nostro altro ospite, appunto a Stefano Rossi. Però lo scenario peggiore che potrebbe determinarsi nel contesto giapponese, insomma, so che voi l'avete realisticamente preso in considerazione. Sì, diciamo che è necessario prenderlo in considerazione, perché è un'eventualità che assolutamente nessuno si augura, ma purtroppo è possibile. Magari però farei un passo indietro, perché in realtà le nostre analisi si basano su quello che sono i dati e le informazioni oggi a disponibilità di tutti, e sulla base dei quali posso anche concordare con il collega dicendo che l'impatto sull'economia globale sarà limitato, anche se pensiamo che il Giappone più o meno rappresenta il 9% del PIL mondiale, quindi anche un dimezzamento di questo potrebbe portare a una riduzione al limite dell'ordine dello 0,5% sul PIL mondiale. Complessivamente il quadro, farei un salto rispetto a 2 anni fa, quando eravamo nel pieno della crisi subprime, è migliorato in modo consistente. Di scenario di double dip non si parla più, l'economia si è rimessa a livello internazionale. Di una ricaduta in recessione, faccio delle traduzioni volanti per i nostri ascoltatori. Sì, lo scenario quindi di ricaduta dell'economia in recessione pare essere stato sconfitto, quindi l'economia è principalmente tirata anche da quella americana. americana sembra essersi impostata su binari abbastanza solidi nella direzione della crescita. Dal nostro punto di vista l'inflazione, seppure nella sua componente che deriva dai prezzi alimentari e dai prezzi dell'energia, è in salita. La parte cosiddetta core, quindi senza queste due componenti, rimane sotto controllo. Tra l'altro la crescita a livello mondiale non è così spinta se togliamo i paesi magari emergenti come la Cina, tale per cui riteniamo che se i governanti delle banche centrali non reagiranno in modo impulsivo, considerando quindi l'inflazione che più importa, dovrebbero avere un atteggiamento non troppo rigido nell'aumentare i tassi di interesse. In questo senso, per esempio, pensiamo che un aumento dei tassi anche a livello europeo non per forza dovrebbe avvenire con l'intensità che il mercato comincia ad attendersi. Parla di tre interventi il mercato da qui alla fine dell'anno, insomma, sì, con una prima manovra dello 0,25% agli inizi di aprile. Sì. Esattamente, riteniamo che forse una manovra del genere potrebbe essere anche un po' eccessiva, dato quello che sono i segnali concreti di ripresa. Complessivamente comunque abbiamo una situazione in cui il mercato obbligazionario, seppure con tassi che non ci prevediamo in rapido aumento, quindi di perdere, diciamo, valore degli investimenti sui nostri BTP, per esempio sui titoli lunghi di Stato, europeo, diciamo, piuttosto che internazionale, il mercato obbligazionario comunque è relativamente poco interessante e comunque ci sono possibilità di andare incontro a delle perdite, quindi alla diminuzione del valore del corso dei titoli. E l'asset class più interessante risulta comunque essere ancora quella azionaria. Asset class più interessante, seppure in un contesto con dei grossi punti di domanda. Ora l'attenzione mondiale è concentrata sulla situazione del Giappone. La situazione che abbiamo in Libia e in generale di così fermento in Medio Oriente e Nord Africa ha una portata, diciamo, un po' più limitata al momento a livello contingente su quello che è l'andamento dei mercati, e diciamo la situazione europea secondo il nostro avviso, secondo anche il mio parere personale, sarà un'incognita che ci porteremo avanti tanto tempo finché non arriveremo ad avere un'unione europea più politicamente e fiscalmente coordinata. A livello, diciamo, della situazione contingente, la realtà è che solo gli esperti possono pronunciarsi su quello che accadrà, e in realtà neanche questi, perché anch'io recentemente ho sentito diverse interviste di esperti che sono stati anche all'interno delle centrali, allora addirittura di Chernobyl, e in realtà il comportamento di materiali estremamente pericolosi, tra l'altro sappiamo che alcuni di questi reattori utilizzano dei materiali di riciclo riciclati addirittura in Francia e poi reintrodotti nei reattori, possono avere dei comportamenti estremamente pericolosi, e ci sono anche presenze di materiali come per esempio l'uranio, plutonio e altri che hanno una decadenza estremamente lunga, quindi non si parla di giorni ma si parla di anni o addirittura migliaia di anni. Nessuno si augura lo scenario peggiore, però sappiamo che Tokyo è molto vicino a questa centrale e la situazione è difficilmente prevedibile. Insomma, bisogna stare particolarmente alla finestra in un frangente delicato come questo, in cui appunto ad una crisi che ancora non è stata superata del tutto, alimentata un po' dalle tematiche macro nordafricane delle ultime settimane, si è aggiunta anche questa nuova emergenza che appunto, come tutte ovviamente, era completamente disattesa e anche inedita per effetti e per portata. La interrompo, Tarabini Castellani, perché volevo cominciare a sentire anche i nostri ascoltatori, e vedo che molti ci stanno scrivendo e molti ci stanno anche chiamando. Ovviamente, lo sottolineava lei particolarmente bene poco fa, in questo momento la totale attenzione mondiale è concentrata ovviamente sul Giappone e per gli impatti economici della crisi determinata dal terremoto e dallo tsunami, ma anche per questi altri di natura ambientale, chiamiamole così, ma non è che poi tutti gli altri problemi ce li siamo dimenticati, come per esempio la questione del debito sovrano dell'Eurozona. Noi viviamo qua e quindi chiaramente quello che succede un po' al debito dei paesi del nostro continente ci interessa particolarmente. Allora ci metto dentro la domanda di Marco dalla provincia di Pavia, che saluto. Marco? Marco? Marco, ci sente? Cosa fa? Si è distratto? Ha tolto il telefono dall'orecchio? Niente, non ci sente? Allora io leggo la considerazione dell'ascoltatore. Pronto, sì, Marco, Marco, dove stava? Niente, avevo appena un punto dove l'ho prendato, tanto bene il telefonino. Sì, ci dica. Niente, io volevo sapere se in merito alle notizie che sono venute adesso dal Giappone, cioè, cosa ci dobbiamo aspettare in merito a quello che sentiamo noi? Perché noi, insomma, i piccoli investitori non hanno mai le notizie in anteprima. Quando succedono è, diciamo che è già tardi. E quindi io volevo sapere come potevamo regolarci, cioè qual era lo scenario che dovevamo aspettarci. Marco, infatti abbiamo difficoltà con il suo collegamento, però insomma in ogni caso ci si aspetta, da quello che capisco da parte vostra, dei suggerimenti anche abbastanza concreti. Ho letto anch'io molte interviste in questi giorni di colleghi, di miei ospiti di questa mattina. L'invito è quasi sempre quello, Stefano Rossi, di mantenere i nervi saldi e sicuramente non prendere delle posizioni molto spregiudicate, né in termini speculativi, perché se si è un piccolo investitore è bene che certe scelte aggressive non si facciano, ma anche lì comunque avere i nervi saldi in una crisi che ha imposto di tenerli saldi da almeno 4 anni comincia ad essere un po' dura la tenuta. Beh, ma uno deve stare nei mercati sapendo che ci sono purtroppo ogni determinato periodo delle incognite che non è possibile prevedere, quindi per quanto riguarda le notizie in anteprima vorrei sfatare questo mito, non è che noi sappiamo prima quello che succede, possiamo cercare di fare... Nessuno aveva detto che arrivava lo tsunami? No, non ce l'aveva avvertito nessuno, però purtroppo è anche, diciamo, non tanto bello fare dello spirito in questo senso. Io dico soltanto una cosa, che in questo momento la situazione sui mercati finanziari mi sembra meno peggio rispetto alla crisi sistemica che abbiamo potuto vedere nel post Lehman. Nel post Lehman ricordiamoci che c'è stata una situazione assai più estrema in cui i meccanismi finanziari non funzionavano più, cioè le banche non prestavano più soldi non alla gente, a loro stesse, in cui ancora adesso stiamo vedendo gli interventi estremi da parte delle banche centrali per salvare il sistema. Ecco, qui il sistema ha funzionato e sta funzionando con i suoi pro e contro molto bene, nel senso che la borsa giapponese non è stata chiusa neanche un minuto. Gente ha detto, ma perché non chiudono la borsa? E dall'altra parte dici, se chiudi la borsa allora veramente è un problema. Le borse sono così, uno deve sapere che esistono questi rischi ma anche opportunità. Per andare sul pratico, allora, quello che abbiamo noi, parlerò in modo molto, diciamo, semplice e trasparente sulla nostra asset allocation, del nostro fondo Focus, che è un fondo flessibile e che quindi in parte ricalca quello che può essere anche così l'asset allocation che può fare qualsiasi cliente fatto in casa. Noi in questo momento abbiamo il 15% in azioni, che abbiamo incrementato negli ultimi 2 giorni. Perché le azioni che abbiamo sono delle azioni che noi riteniamo possano avere, diciamo, quando le cose succedono in modo normale, nessun impatto negativo da parte della crisi giapponese e nessun impatto negativo da parte, diciamo, di ulteriori problemi sul fronte del petrolio alto. È chiaro che bisogna saper muovere il portafoglio, perché i settori in questo caso ruotano, cambiano le mode, succedono diciamo la espansione del multiplo di borsa, che è la classica situazione in cui fanno la situazione di base per cui le azioni salgono, cioè gli utili o salgono loro stessi e qui siamo in presenza di crescita di utili da parte delle aziende, oppure il mercato, diciamo, decide di pagare di più questi utili dandogli un multiplo superiore. Ci sono delle aziende, tipo, mi viene da fare qualche nome così che poi la gente può anche andarsi a cercare, aziende che sono coinvolte per esempio nella produzione delle lampade a LED. Ecco, la mia logica di investitore, ma è anche una logica da uomo comune della strada, mi dice che se io risparmio per far funzionare le lampadine a LED spendo meno di un quarto di quello che spendevo per far funzionare le lampade al neon oppure le lampade a incandescenza, Il mercato del LED deve esplodere. Allora, qui ci sono delle azioni e delle società quotate. In America ce n'è una che si chiama Cree, e andatevela a guardare, perché perlomeno imparate qualcosa da un punto di vista di capire come ragiona un investitore professionale. Poi potremmo avere ragione o meno. Certo. Però questo è il tipo di ragionamento che bisogna fare. Abbiamo lasciato in sospeso il tema tassi di interesse, che interessa moltissimo gli ascoltatori che sono in ascolto, e allora adesso lascio completare l'analisi sui tassi a Francesco Tarabini Castellani. Però prima ci metto la domanda di Antonio di Campobasso e ne leggo anche un paio di interventi dei nostri ascoltatori al 349-238-6666, perché forse o qualcuno sta scegliendo il suo mutuo o sta monitorando il mercato interbancario per altre ragioni, però vedo che è un tema gettonatissimo. Antonio, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere quali erano le previsioni nel medio termine dei cambi con lo yen. Antonio, hai visto cosa è successo negli ultimi 2 giorni, no? No, no, sì, però voglio dire, mi sembra una risposta anomala. La logica vorrebbe che se la crisi giapponese è pesante, per mantenere le esportazioni saranno costretti a svalutare, e anche in maniera sensibile. E invece è andato questo, in tutto il contrario. No, ora nell'immediato sì, perché probabilmente hanno bisogno anche di rientrare loro dagli investimenti che hanno sui debiti sovrani all'estero. Però nel momento in cui hanno bisogno di risostenere le esportazioni, per forza di cose dovrebbero svalutare. E se succede questa cosa, i cambi del dollaro e dell'euro che fine fanno? Antonio, grazie. Allora andiamo a Francesco Tarabini Castellani. Da dove vuole cominciare? Dalle prospettive sui tassi di interesse? Perché c'è un ascoltatore che ci chiede tutto questo che impatto potrà avere sull'Euribor e sugli altri appunto tassi di interesse sul circuito interbancario. E poi le valute, appunto. Abbiamo visto le oscillazioni enormi delle ultime ore, direi, più che degli ultimi giorni, sì. Sì, beh, bisogna un po' separare quella che è l'intervento adesso congiunto anche in modo straordinario, per esempio la riunione del G7 di questa notte, che in modo proprio straordinario ha deciso questa azione coordinata nei confronti dello yen, che verso l'euro l'ha portato praticamente da 106 a 114 come riferimento. C'è il Giappone, sappiamo che ha quasi 1000 miliardi, 900 e rotti miliardi di titoli di Stato statunitensi, che sostanzialmente di volta in volta gli investitori stanno rimpatriando per far fronte a quella che è l'emergenza domestica, e dall'altra parte l'intervento delle banche centrali. In generale il nostro atteggiamento su quello che è le divise, ma anche sul dollaro, quest'anno è di estrema prudenza. Mentre gli anni passati abbiamo diversificato in modo più consistente in terze divise, quest'anno riteniamo che le divise diverse rispetto all'euro siano più una fonte di incremento del rischio che di diversificazione del portafoglio. Quindi l'atteggiamento generale che suggeriamo è dal punto di vista dell'investitore che pensa in euro è di prudenza. Con riferimento ai tassi, chiaramente ci sarà una grande disponibilità resa pronta a livello internazionale. Con riferimento ai tassi lunghi, riteniamo, come ho detto precedentemente, che non aumenteranno in modo repentino. Chiaramente se uno pensa di fare un mutuo, magari meglio farlo oggi che aspettare 3-6-9 mesi in una situazione in cui magari l'economia ricrescerà e i tassi andranno ad aumentare. E infatti, senta, visto che tra l'altro il petrolio è stato il tema che ovviamente ha dominato l'attenzione, ha spinto l'inflazione e quindi ha riorientato un po' gli atteggiamenti delle banche centrali in tema di tassi di interesse, lei da questo punto di vista, ci sono alcuni ascoltatori che ce lo chiedono, che valutazioni fa? L'oro nero si ferma intorno ai $100 con la soglia che ha indicato prima Stefano Rossi, oppure riprendere a correre? Il valore di riferimento è più o meno quello. In realtà sia il problema del nucleare, che adesso viene, come un po' vediamo anche in Europa, nel mondo, in Germania, pensiamo solo, frenato, ostacolato, riconsiderato, riporterà il problema delle alternative al petrolio. La crisi medio orientale ancora, anche se adesso a breve magari con riferimento alla Libia potrà essere risolta addirittura in buona parte nel weekend. Complessivamente comunque il petrolio è destinato nel breve termine ancora a rafforzarsi, cioè difficilmente lo vedo debole. D'altra parte la crescita economica non è così sostenuta da portarlo a livelli altissimi, ma comunque una piccola diversificazione, se uno vuole vederlo dal punto di vista di investimento finanziario nel petrolio, può fare senso, con un carattere purtroppo un po' speculativo. Allora ci rimangono 2 minuti di tempo, vorrei andare a raffica alle domande dei nostri ascoltatori con risposte brevi, anche se ovviamente ognuna andrebbe invece articolata largamente, ma non ce la facciamo. Monica D'Adesio, lo chiedo a Stefano Rossi questo perché era un tema che in realtà ci eravamo così illusi di poter analizzare nella trasmissione, non ce la facciamo. Però Monica chiede: investire o nei paesi emergenti con azioni aggressive può fruttare qualcosa, oppure bisogna aspettare che il mercato si stabilizzi un po'? In realtà aree del mondo che vanno avanti serenamente in un sentiero di crescita abbastanza sostenuta ci sono. È vero, poi quando si parla di paesi emergenti è sempre molto bene diversificare e differenziare quali emergenti. Io dico semplicemente che anche per quanto riguarda il Giappone, una borsa che perde il 20-25% nel giro di una settimana è meno rischiosa di prima, anche se l'impatto psicologico di investire in questo momento non è certamente il migliore. Penso che la Cina possa avere delle buone caratteristiche in questo momento. Ricordiamoci che la Cina è già 2 anni che sottoperforma, La crescita cinese comunque c'è, è guidata tantissimo da una crescita della popolazione interna e dal reddito pro capite. Ricordiamoci che qui abbiamo l'esempio del Brasile, dove in 10 anni il reddito pro capite è quintuplicato e adesso è un'economia che è veramente molto molto forte e molto stabile. Okay. Quindi guarderei più la Cina che il Giappone. Allora, sintetizzo io la domanda di Carla da Venezia. Avrà pazienza Carla, perché veramente abbiamo ancora pochi secondi di tempo, però vorrei sottoporre la sua richiesta a Francesco Tarabini Castellani. Carla voleva chiederci, in una situazione che è ancora così confusa in questi giorni, è corretto rimanere sul monetario e rinunciare ad eventuali altri guadagni, magari appunto collocando il proprio risparmio in altre asset class, un po' più cominciando ad essere un po' più aggressivi nelle proprie posizioni, perché molti risparmiatori che hanno negli ultimi anni mantenuto il proprio portafoglio molto liquido, Tarabini Castellani, stanno ancora continuando in questo atteggiamento, giusto o no? Io ho comprato azioni, faccio esempio personale, io ho comprato azioni, continuo a detenerle. A livello tattico le abbiamo ridotte, ma nel momento in cui la situazione si sarà chiarita le aumenteremo, con l'accento non tanto magari a breve sui mercati emergenti, che pure a lungo sono interessanti, ma sulle energie sostenibili e sulle energie alternative. Allora, l'ultima domanda, Damiano da Roma: l'India quanto risentirà della crisi giapponese? L'India ieri ha rialzato i nuovi tassi di interesse, Stefano Rossi lo ha fatto per l'ottava volta consecutiva, credo nel giro di pochissimi mesi. Ma l'India onestamente non la conosco abbastanza bene per poter dare un'opinione. Mi sembra che ci sia una situazione di inflazione fuori controllo al loro interno e quindi la banca centrale alza i tassi di interesse in modo sostanziale, continua a farlo, quindi non mi sembra particolarmente un momento buono per investire in azioni. Ottimo. È sempre attivo il nuovo servizio di segreteria telefonica di Salvadanaio in collaborazione con Assogestioni e il Salone del Risparmio, che si svolgerà a Milano il 6, il 7 e l'8 aprile. Potete chiamare il numero 800 28 1212, rivolgere le vostre domande in tema di risparmio gestito, i vostri dubbi sulla materia. Grazie all'ausilio dei nostri esperti abbiamo iniziato a rispondere in diretta ai vostri quesiti. Sentiamo allora qual è la domanda di oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Buongiorno, volevo sapere che rischi corro investendo in fondi. Grazie, buona giornata. Il patrimonio del fondo è separato da quello della società che lo gestisce, dal distributore e dall'eventuale gruppo che controlla l'una o l'altra o entrambe. In sostanza, le somme versate dai singoli confluiscono in una sorta di cassa comune che non può entrare a far parte del patrimonio della SGR e, in caso di fallimento di quest'ultima, essere attaccata dai creditori, che non possono pregiudicare in alcun modo i diritti degli investitori. La norma prevede che le somme investite dai risparmiatori siano custodite nella banca depositaria, una banca indipendente dalla società di gestione, dal gruppo che la controlla e dal distributore. Non entrando a far parte dello stato patrimoniale delle SGR, degli intermediari e dei gruppi bancari di appartenenza, gli attivi del fondo non sono toccati dal fallimento di alcuno di questi operatori. In casi estremi, l'unica ipotesi è la liquidazione degli asset e la distribuzione dei ricavi conseguiti ai sottoscrittori da parte della banca depositaria, in proporzione al numero di quote detenute. Salone del Risparmio, a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis, salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato Le domande del risparmio. Allora, ringrazio e saluto per essere stati con noi Francesco Tarabini Castellani, Banca Vontobel, buongiorno e buona giornata, presto. Grazie molto, a presto. Stefano Rossi, Edmond Rothschild, Banca Italia. C'è l'euro a 1,41,30, sono tanto apocalittica, Stefano Rossi, che oggi mi attacco subito al sito web di Victoria's Secret in America, che mi faccio subito qualche acquisto, così vai, impara così, a dirmi che sono così sostieni il PIL americano. grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Torniamo lunedì, buon fine settimana a tutti.